Volevo dirvi innanzitutto che il programma è in rete, su didattica web, per il primo e il terzo anno, quindi è disponibile. Prima cosa. Seconda cosa, volevo dire, ricordarvi che oggi c'è quel seminario su Flaubert da parte del dottor Boccatoni sulle lettere di Flaubert dalle 3 alle 5, che è parte dell'esame. E come vi avevo annunciato, terza cosa, last but not least, qui ci sono i moduli famosi di valutazione del corso, e adesso io ve li distribuisco, cioè rapidamente, voi dovete riportarli fra una settimana, devono essere rigorosamente anonimi, questi si rivolgono al docente, sono io, si rivolgono al docente, sono rigorosamente anonimi, dovete ripetere, e devono riguardare, a questo è il punto, solo il corso su Flaubert, va bene? Le persone che invece seguono il corso sull'avanguardia, quelle del terzo anno, gliele distribuirò per non fare confusioni in una seconda tornata lunedì prossimo, va bene? Allora cominciamo a distribuirli, io non so se a occhio e croce, non so se basta. Anzi, non bastano sicuramente. Provate un poco. Chi è? Antonio, che è un giovane, forte, ma di virilità. Vediamo un poco cosa ci può fare. Ho l'impressione che non bastino. Se non bastano, nella seconda ora, se gentilmente mi aspettate, vado su e vedo quello che si può ancora ottenere di questi fondi. No, no, ma non basta. Cercare di dare un minimo poco livelli neurologici al termo, non più in campo. Voglio dire, tanto per finire il fatto. Di debiti in debiti, di cambiali in cambiali, e cambiali credo non abbiano ancora toccato il vostro livello di vita, sono dei pagherò, sono dei foglietti in cui si dice darò la tale cifra il giorno tale, questo è la cambiale, no? In Francia si dice billet. Al momento della scadenza il creditore si presenta al debitore dicendo ah bello, mi devi dare i soldi. Qualora il debitore non desse soldi, a quel punto la cambiale entra in protesto con conseguenze legali, penali, che adesso qui non è il caso di dire, si viene in galera perché il cambiale, perché lo abbia detto, il cambiale andrà a casa. Per una cambiale è andata in protesto. Oh, un sistema che viene usato specialmente da persone poco oneste è quello di far girare la cambiale in modo che la cambiale viene intestata a un altro, in modo tale che poi chi deve riscuotere i soldi alla fin fine è quell'altro, quindi è quell'altro che si prende le rogne e le responsabilità. Questo è quello che fa Leroux con un tal Bensard, per non far vedere a Madame Bovary che è lui in prima persona. Di economia la povera Bovary nulla capisce. Nulla capisce e non può chiedere consiglio a nessuno, non ha amici. E quando una cambiale va in protesto, argomento poco romantico, ma so, lei ha mai avuto la cambiale in protesto? Forse l'avrà. Pensami. Comunque ho studiato un po' la materia. Ha studiato, quindi è sufficientemente erudito. Quando la cambiale va in protesto, naturalmente il creditore, che può essere per esempio lo Stato, si rivale e si arriva spesso a un sequestro cautelativo dei beni. Cioè vengono in casa tua e ti dicono non hai pagato per 300.000 euro, allora ti prendiamo il tappeto, la televisione, la camera da letto, no? Questo è quello a cui va incontro Madame Bovary. Come fa a non accorgersene? Perché naturalmente chissà dall'altra parte è molto astuto, e una cosa di cui Flaubert parla con dettaglio è questa, che per esempio un trucco a cui ricorre Leroux è questo: tu mi devi 1200 franchi, ma non hai da darmi 1200 franchi, allora te li presto io, cioè ti presto i soldi che dovresti ridarmi, però mi interessa altissimo, no? Oppure mi ridai non i 1200 franchi, ma 1000 soli. Quindi 200 si accumulano, alla fine una persona viene schiacciata sotto le cambiali e a Madame Bovary viene annunciato quanto segue: o paga sull'unghia 8.000 franchi o le sequestrano tutti i mobili in casa. Il marito non sa nulla, lei è piena di vergogna, di angoscia. A chi rivolgersi? Ecco, mettiamo che una di voi si trovi a pagare, facciamo un'equivalenza, 8.000 euro sull'unghia, a chi si rivolge? Non può rivolgersi ai genitori perché la comperebbe, si rivolge al fidanzato. Va da Leon e gli dice: Leon, tu mi devi salvare la vita. Ricordate che Leon era il sostituto di un notaio, quindi lavorava in un ufficio di notaio. Tu mi devi prestare, mi devi trovare 8.000 franchi. Al che mi risponde: sei pazza? E lei replica: non ancora. Dove li trovo 8.000 franchi? Nello studio dove lavori. Nello studio, ma non sono soldi miei. conta di niente, dice tu sai che in quello studio ci sono 8.000 euro. Insomma, lo induce a commettere quello che è in prima istanza legalmente un'appropriazione indebita, in seconda istanza è un furto. Leon rapidamente mette sui due piatti della bilancia la trazione che ha per Emma Bovary e dall'altra parte la sua carriera. Risponde in questo modo: vado allo studio, vado a vedere, tu aspettami per le 3. Se alle 3 non sono tornato, non mi aspettare più. Alle 4 Leo non è tornato. E quindi sul fatto di soldi si chiude la storia tra Emma e Leo. La disperazione in Emma aumenta, si consulta con la domestica e la domestica propone di rivolgersi a un personaggio che è ricco del luogo, che ha molta stima di lei. Stima, che stima si può avere nei confronti della Bovary? La Bovary è una gran bella donna, quindi la stima può essere di un certo genere semplicemente. È il notaio Guillaumin. Il notaio Guillaumin, calvo, con qualche riccioletto osceno biondo di capelli dietro, vecchio, con un'aria palesemente sporcacciona, grassoccio, gli occhialetti, riceve Emma mentre sta pranzando e non si sogna minimamente per buona creanza di interrompersi, anzi per la verità non sta neanche pranzando, deve andare a pranzare, ma non si sogna minimamente di interrompersi, di razionare per sapere prima che cosa Emma vuole. Ed Emma è in una condizione di così forzato servilismo che è costretta a sedersi lì al tavolo dove lui sta mangiando, e tutto questo lui sa benissimo perché Emma è venuta. È venuta per chiedergli un prestito. Lui sa benissimo tutto perché è d'accordo con l'usuraio Leroy. Quindi fa una manfrina, la tira lunga, dicendo: signora, lei avrebbe dovuto, voi avreste dovuto rivolgervi a me in altro momento, gli avrei suggerito anche per una signora un investimento quasi a colpo sicuro. Adesso certo è tardi, è difficile, e in quel mentre comincia ad avvicinarsi, diciamo così, a lei. E questo avvicinamento fisico e non morale, questo avvicinamento a lei, noi lo troviamo qua. Dopo il 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E dovreste trovare il capoverso savoir fade susurré come un ruisseau qui coule. 3,94. Savoir fade susurré. E tradotto: la sua voce insipida sussurrava come un ruscello che scopre. Una scintilla sprezzava dalle sue pupille attraverso il luccichio degli occhiali. Ci siamo? No? Non l'avete trovato? Allora guardate, fate così. Dal capitolo che è appena cominciato, dal capitolo settimo, andate avanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dopo il capitolo settimo dovrebbe essere la sesta pagina, vedete un po', savoir fade susurré. Ci siamo? Va bene. La sua voce sibila susurrava come un uccello che vola, una scintilla sprezzava dalle pupille attraverso il luccichio delle lenti, le mani avanzavano nella manica di Emma per palparle il braccio. Ella sentiva contro la guancia il soffio di un respiro affannoso. Quest'uomo le dava un terribile disagio. Si levò d'un tratto e gli disse: «Signore, aspetto!» «Chi dunque? Che cosa dunque?» fece il notaio, che divenne tutto a un tratto estremamente pallido. «Quel danaro!» «Ma...» E poi, cedendo all'irruzione di un desiderio troppo forte: «Ebbene, sì!» Si trascinava in ginocchio verso di lei, senza riguardi per la vestaglia, era vestito da casa con una vestaglia con cui appunto faceva il suo pranzo. «Di grazia, restate, io vi amo!» La terrò per la vita. Un fiotto color porpora salì presto al viso di Madame Bovary. Ella indietreggiò con aria terribile, gridando: «Voi approfittate impudentemente del mio star male, signore. Sono da compiangere, ma non da vendere.» E uscì. Il notaio restò stupefatto, gli occhi fissi sulle belle pantofole ricamate. Era un regalo d'amore. Quella vista alla fine lo consolò. D'altronde pensava che un'avventura simile l'avrebbe portato troppo lontano. «Che miserabile, che mascalzone, che infamia!» ella si diceva, fuggendo nervosamente sotto i pioppi della strada. La rabbia dell'insuccesso rinforzava l'indignazione del suo pudore oltraggiato. Le sembrava che la provvidenza si accanisse a perseguirla, e rialzandosi nell'orgoglio mai aveva avuto tanta stima per se stessa né tanto disprezzo per gli altri. Qualcosa di bellicoso la trasportava. Avrebbe voluto picchiare gli uomini, sputar loro in faccia, stritolarli. Continuava a camminare rapidamente davanti a sé, pallida, fremente, furibonda, scrutando in pianti l'orizzonte vuoto e come dilettandosi all'odio che la soffocava. In questo passo, oltre che essere naturalmente significativo per la nostra storia, lei non è il libro davanti? Ormai? Manca dalla rima due mesi, la mia prima lezione. Allora, può fare l'esame, se non cade, deve fare l'esame per i non frequentati. Il passo è interessante per una o due piccole notazioni che sottopongo alla vostra acuta attenzione, che è diventata acuta poi nel frattempo, a forza di cose acute che abbiamo visto e detto. Chi è la Bovary? Cioè, è una Ruby? Sapete chi è Ruby? È una Nicole Minetti? Sapete chi sono? No, assolutamente. Il problema è che è una donna onesta, travolta dalla passione. E la passione è il frutto, attenzione, molto importante questo, è il frutto dell'educazione che ha avuto, dell'educazione romantica. Cioè, è proprio una dimostrazione di un teorema quella che noi troviamo. Se voi a una donna date dei libri che eccitino il suo spirito in senso sentimentale, perché tutto questo libro è scritto contro il romanticismo, a un certo momento, se questa donna si trova a cozzare contro delle infelicità della vita e nelle fattispecie delle infelicità coniugali, vorrà cercare la felicità all'intorno. Quello che Emma Bovary cerca è molto semplicemente una divinità umana. Tutte le persone quando stanno male, atei o non atei, i non atei no, naturalmente con consapevolezza, gli atei senza consapevolezza, cercano qualcuno, diciamo così, che si possa chiamare Dio che li aiuti, insomma. Ed ecco come lei cerca questo Dio che l'aiuta, che si incarna in figure maschili. Il Dio è l'amore, il Dio è l'amore. Questo amore non ha un nome preciso, questo amore si incarna in diversi personaggi. Prima crede che possa incarnarsi nella figura del marito, poi subito si rende conto che è impossibile. C'è la figura di Rodolfo, poi torna la figura di Leon, poi torna un'altra volta, come vedremo, alla figura di Rodolfo. Ma dappertutto, come dicevamo nei giorni scorsi, trova la infelicità e si interroga sul perché comunque agisca si sente infelice. Qui c'è un problema da risolvere. Bisogna avere del denaro. A chi si può chiedere il denaro? Ha provato a chiederlo a chi era più giusto chiederlo, cioè al suo attuale compagno, fidanzato, e questo che cosa ha fatto? Ha mostrato paura sostanzialmente, è scappato. Vi ricordate che lei lo aveva già in passato sospettato di essere più molle di una donna, aveva detto. L'aveva sospettato di essere un vigliacco. Nell'ottica romantica questo è quello che una donna può sopportare dal suo cavaliere, può sopportare qualsiasi cosa, ma non che sia un uomo pavido. Si rivolge a una persona da cui sa che non può aspettarsi nulla, ma nella disperazione, spesso ultima dea, si rivolge al notaio. Il notaio le fa, come in 100.000 casi di questo genere, delle proposte in cambio. Probabilmente se lei avesse ceduto a queste proposte, il notaio gli avrebbe dato il denaro. Che cosa a questo punto resta da fare? A questo punto resta di accettare il colmo dell'umiliazione, ma prima ancora di passare alla seconda parte, volevo farvi notare che in questo passo si dice: un fiotto di porpora salì al viso di Madame Bovary. Raramente viene indicata come Madame Bovary, viene indicata come Emma. Il fatto che adesso dica Madame Bovary è proprio perché l'autore Flaubert vuol dare una dignità a questa donna in questa circostanza, dicendo: questa è una donna sposata, non è una ragazza da vendere, come dice subito dopo, con una massima un po' ridicola: je suis à plaindre, addirittura in rima, mais pas à vendre, sono da compiangere ma non da vendere. Che vedete è una citazione letteraria quasi, una frase di questo genere noi la potremmo aspettare in uno scrittore, non so, in Racine, in Corneille, no? È come se quando deve esprimere qualcosa di sé non riesce a far di meglio, non riesca a far di meglio che attingere alla propria educazione letteraria. E qui sembra appunto citare un moralista classico. Dopodiché, la furia per il suo pudore oltraggiato, quindi è una donna per bene, tra virgolette, perché nel caso della submenzionata Ruby Rubacuori non credo che si ponesse un problema di pudore oltraggiato. Dice che ha grande stima per se stessa. Stima perché di fronte a questi uomini indegni, lei sa mantenere la sua dignità. l'unità contro tutto. Ha rovinato il marito. Pensa fra sé e sé, una parte che non abbiamo letto, Charles, sappi che tutto quello che adesso hai in casa, il tuo tappeto, la tua scrivania, i tuoi mobili, nulla è più tuo, perché io ti ho rovinato. Io ho sprecato tutto quello che tu avevi, l'ho venduto, sono stata costretta a darlo via. L'ultima umiliazione è Rodolfo, quello Rodolfo che l'aveva svillaneggiata, che era scappato, come tutti gli uomini scappano, ma è l'unica persona che può aiutare in questo punto la Bovary, e quindi va a casa di Rodolfo. Una donna oltraggiata da lui, sì, torna per cercare di avere comunque questi soldi. Gli chiederà un'altra cifra, sa di non poter chiedere 8.000 franchi, poi vedrete nel corso, gli chiederà un'altra cifra, però intanto deve cominciare ad avere dei danari per poter andare incontro a questo obbligo di bloccare il sequestro dei mobili. Quindi vada, adesso trovate dunque a partire dal capitolo 8, il titolo di questo capitolo è L'orgoglio di Eri. Adesso andiamo al 42, che è dopo il capitolo 8, la pagina successiva, niente a parte. Al capitolo 8, dopo poche righe, trovate al terzo capoverso Il était devant le feu, le deux pieds sur le chantral. Va bene? Sì. Ecco. E siccome è una pagina decisiva questa, mi sentite? Che obiezioni ci sono? Dopo avervi dato il titolo del capitolo, il quale è Torna da Rodolfo, io non mi interromperò più per evitare che la climax sia spezzata. Quindi da questo punto in poi non mi interrompo più. Questo sarà un capitolo diviso in due, particolarmente lungo, ma se lo spezzassi farei a Clover anzitutto, poi a voi un grave torto, per cui ve lo traduco direttamente. Siete pronti? Via. Era davanti al fuoco, i piedi sulla cornice del caminetto, e stava fumando una pipa. Oh, siete voi? Egli disse alzandosi bruscamente. Sì, sono io. Vorrei, Rodolfo, chiedervi un consiglio. E malgrado tutti i suoi sforzi, gli era impossibile disserrare la bocca. Non siete cambiata, siete sempre graziosa. Oh, ella riprese amaramente, sono tristi grazie, amico mio, poiché vi avete sdegnate. Allora lui mise su una spiegazione della sua condotta, scusandosi in termini vaghi, non potendo inventare di meglio. Lei si lasciò prendere dalle sue parole, e più ancora dalla sua voce e dallo spettacolo della sua persona, così che fece finta di credere, o forse credette, al pretesto della loro rottura. Era un segreto da cui dipendevano l'onore e perfino la vita di una terza persona. Non importa, ella fece guardandolo tristemente. Ho molto sofferto. Lui rispose con aria filosofica. La vita va così. vita, riprese Emma, almeno è stata buona dopo la nostra separazione? No, né buona né cattiva. Forse sarebbe stato meglio non lasciarci. Sì, forse. Tu credi? Ella disse avvicinandosi e sospirò. Oh Adolfo, se sapessi, ti ho molto amato. Fu allora che ella prese la sua mano e restarono per qualche tempo con le dita allacciate, come il primo giorno ai comizi. Con un gesto di orgoglio egli si dibatteva sotto la tenerezza, ma accasciandosi lei sul suo petto le disse: e come volevi che io vivessi senza di te? Non ci si può disabituare alla felicità. Ero disperata. Ho creduto di morire. Non ti racconterò tutto. Tutto. Vedrai. E tu? Tu mi hai sfuggito. Infatti, da 3 anni, egli aveva accuratamente evitato di incontrarla a seguito di quella viltà naturale che caratterizza il sesso forte. Ed Emma continuava con dei gesti carini del capo e più civettuola di una gatta in amore. Tu mi ami delle altre, confessalo. Ah, le capisco. Sì, le capisco. Le scuso, le scuso. Le avrai sedotte come avevi sedotto me. Tu sei un uomo, tu. Tu hai tutto quello per cui si può amare un uomo. Ma ricominceremo, non è vero? E ci ameremo. Vedi? Ci ameremo. Io rido. Sono felice. Parla, parla dunque. Era fascinosa vedersi col suo sguardo in cui tremava una lacrima come l'acqua di un temporale nel calice azzurro di un fiore. Egli la tirò sulle ginocchia e carezzava col dorso della mano le bande lisce dei suoi capelli, dove nella luce del crepuscolo scintillava come una freccia d'oro un ultimo raggio di sole. Chinava la fronte e finì per baciarla sulle palpebre dolcemente a fior di labbra. Ma tu hai pianto? E gli disse. Perché? Lei scoppiò in singhiozzi. Rodolfo credette che fosse l'esplosione del suo amore. E siccome taceva, prese questo silenzio come un estremo pudore e allora gridò: ah, perdonami, tu sei la sola che mi piaccia, la sola. Sono stato imbecille e malvagio. Io ti amo e ti amerò sempre. Che cos'hai? Dimmelo dunque. Egli si inginocchiava. Ebbene, sono rovinata, Rodolphe. Tu devi prestarmi 3.000 franchi. Ma, egli disse rialzandosi poco a poco mentre la sua fisionomia prendeva un'espressione grave. Tu sai, ella continuava in fretta, che mio marito aveva messo tutta la sua fortuna da un notaio ed è fuggito. Abbiamo fatto dei prestiti e i clienti non pagavano. Del resto la liquidazione non è finita, avremo ancora del denaro più tardi, ma oggi ho bisogno di 3.000 franchi, se no ci sequestrano tutto, adesso, subito. Ed è contando sulla tua amicizia che io sono venuta qui. Pensò Rodolfo, che divenne pallidissimo tutto a un tratto. È per questo che è venuta. Emma e Alfine disse con aria calmissima: non li ho, cara signora, non mentirono. Se li avessi avuti, forse gliel'avrebbe dati, sebbene sia generalmente sgradevole fare così belle azioni. Una domanda di soldi fra tutte le burrasche che cadono sull'amore, essendo la più fredda e la più devastante. Ella restò da principio per qualche minuto a guardarlo. Tu non li hai, i soldi. Ella ripeté più volte: tu non li hai. Avrei dovuto risparmiarmi quest'ultima umiliazione. Tu non mi hai mai amato. Tu non sei meglio degli altri. Ella si tradiva, si perdeva. Rodolfo le interruppe affermando che si trovava in difficoltà lui stesso. Ah, ti compiango, disse Emma, ma sì, davvero. E fissando a questo punto una carabina da maschinata che brillava nella panoplia: ma quando si è così poveri non si mette l'argento sul calcio del proprio fucile? Non si compra un pendolo con delle incrostazioni di tartaruga, continuò mostrando l'orologio di Bull, né dei fischietti di vermeil per le proprie fruste, ella li toccava, né dei ciondoli per il proprio orologio. Oh, non gli manca niente lui, niente gli manca, anche un portaliquore nella stanza, perché tu ti ami, vivi bene. Hai un castello, delle fattorie, dei boschi, vai a caccia, viaggi a Parigi. Quando non fosse che per la più piccola di queste cianfrusaglie, gridò prendendo sul caminetto dei gemelli da polsini, la minima di queste sciocchezze ci si potrebbe cavare del danaro. Oh, non li voglio, tienili. E scagliò lontano da sé i due gemelli, la cui catenella d'oro si ruppe urtando contro il muro. Io ti avrei dato tutto. Io avrei venduto tutto, io avrei lavorato con le mie mani, avrei mendicato sulle strade per un sorriso, per uno sguardo, per sentirti dire grazie. E tu che stai lì tranquillo nella tua poltrona, come se già non mi avessi fatto abbastanza soffrire. Senza di te, lo sai, avrei potuto vivere felice. Chi ti forzava? Era una scommessa? E tu mi amavi, tuttavia, lo dicevi, e ancora poco fa, sarebbe stato meglio cacciarmi via. Ho le mani calde dei tuoi baci, ed ecco il posto sul tappeto dove giuravi ai miei ginocchi un'eternità d'amore. Tu mi ci hai fatto credere, tu, per 2 anni. Mi hai trascinato nel sogno più magnifico, il più soave, i nostri progetti di viaggio. Ma te ne ricordi? Oh, la tua lettera mi ha strappato il cuore. E poi quando torno da lui, che è ricco, felice, libero, per implorare un aiuto che il primo venuto darebbe, supplichevole, portandogli tutta la mia tenerezza. Mi respinge, perché questo gli costerebbe 3.000 franchi. Non li ho, rispose Rodolfo, con quella calma perfetta di cui si coprono come d'uno scudo le collere rassegnate. E lo uscì. I muri tremavano, i soffitto la schiacciava ed ella mi passò per il lungo viale inciampando contro mucchi di foglie morti che il vento disperdeva e infine arrivò a un fossato davanti al cancello e si spezzò le unghie contro la serratura tanto si affrettava per aprirlo e poi 100 passi più in là priva di fiato rischiando di cadere si fermò e allora volgendosi scorse ancora una volta l'impassibile castello con il parco, i giardini, i 3 cortili, tutte le finestre della facciata e restò perduta di stupore non avendo più coscienza di sé che attraverso il battito delle arterie che credeva sentire sfuggire come un'assordante musica che empisse la campagna il sole, il suolo sotto i suoi piedi era molle era più molle di un'onda e i solchi gli sembravano immensi marosi prumi che si spaccavano e tutto quel che c'era nella sua testa di reminiscenze, idee sfuggiva tutti insieme d'un tratto come i 1000 pezzettini che compongono un fuoco di artificio. Il laboratorio di Leroux e la loro camera laggiù, un altro paesaggio, la follia la prendeva, la follia. Ebbe paura e riuscì a riprendersi, ma in maniera confusa, e infatti non si ricordava più la causa del suo stato orribile, cioè la questione dei soldi. Non soffriva, credeva, che del suo amore e sentiva la sua anima abbandonarla attraverso quel ricordo come i feriti agonizzando sentono l'esistenza che se ne va attraverso la piaga che sanguina. La notte cadeva, delle cornacchie svolazzavano. Le sembrò tutto a un tratto che dei globuli color fuoco scoppiassero nell'aria come palle fiammanti, appiattendosi e giravano per andare a sciogliersi nella neve fra i rami degli alberi. In mezzo a ognuno di essi la faccia di Rodolphe riappariva e i rami si moltiplicavano, si avvicinavano, la penetravano, tutto scomparve. Ella riconobbe le luci delle case che risplendevano da lontano nella nebbia. Allora la sua situazione come un abisso si ripresentò. Avanzava da spezzarsi il petto e poi in un trasporto di eroismo che la rendeva quasi gioiosa scese lungo la costa correndo e attraversò la passerella per le mucche il sentiero, il viale, il mercato e arrivò fino alla farmacia ma non c'era nessuno stava per entrare ma il rumore del campanello potevano arrivare allora scivolando dietro lo steccato e trattenendo il fiato e andando a tastoni lungo i muri si avanzò fino alla soglia della cucina e dove ardeva una candela poggiata su un fornello. Justin, in maniche di camicia, stava portando un piatto. Ah, pranzano! Aspettiamo. Lui tornò. Lei bussò contro il vetro e gli uscì. La chiave! Quella in alto dove sono i come egli la guardava stupito dal pallore del suo viso che si stagliava bianco sul fondo nero della notte e la riapparve straordinariamente bella e maestosa come un fantasma, senza comprendere quel che voleva. Presagiva però qualcosa di terribile. Bella riprese con forza, voce bassa e con voce dolce e struggente. La voglio! Dammela! Siccome la parete era sottile, si sentiva il clicchettio delle posate sui piatti nella sala da pranzo. Lei diceva d'aver bisogno di uccidere i topi che le impedivano di dormire. Bisognerebbe che io avvertissi il padrone. No! Resta. Poi con un'aria indifferente. Non è necessario, glielo dirò io fra poco. Su, fammi luce. Ed entrò nel corridoio, dove si apriva la porta del laboratorio e c'era contro il muro una chiave con l'etichetta Cafarnao. Justin! Gridò il farmacista che si impazientiva. Saliamo! Egli la seguì. La chiave girò nella serratura e lei andò dritto verso il terzo scaffale. Tanto il ricordo la guidava bene e afferrò il boccale azzurro, ne strappò il tappo e vi cacciò dentro la mano e la ritrasse piena di una polvere bianca e si mise immediatamente a mangiarla. Fermatevi! Gridò gettandosi su di lei. Sta zitto.